Ma la marchesa nata Le Grandin rimase fredda, allo scopo di testimoniare il suo disprezzo non già per le mie parole, ma per quelle della suocera. D'altronde, non solo ne teneva in poco conto l'intelligenza, ma ne deplorava la cortesia, temendo sempre che la gente non si facesse un'idea adeguata dei Cambremer. E che nome grazioso, aggiunsi, sarebbe bello sapere l'origine di tutti questi nomi. Di questo sono in grado di dirvela, rispose con dolcezza la vecchia signora. È una dimora di famiglia di mia nonna Arachepelle. Non è una famiglia illustre, ma una buona famiglia di provincia e molto antica. Come non illustre? La interruppe seccamente la nuora. Le sue armi riempiono un'intera vetrata della cattedrale di Bayeux e nella chiesa principale di Avranches ci sono i loro monumenti sepolcrali. Se questi vecchi nomi vi divertono, aggiunse, arrivate con un anno di ritardo. Avevamo fatto nominare curato di Criqueteau, nonostante tutte le difficoltà che si frappongono ai cambiamenti di diocesi, il decano d'un paese dove possiedo delle terre, molto lontano da qui, a Combray, e dove quel buon prete si sentiva diventare nevrastenico. Purtroppo, anziano com'è, l'aria di mare non gli ha giovato. La sua nevrastenia è aumentata e se n'è tornato a Combray. Ma si è divertito finché è stato nostro vicino a consultare tutte le vecchie carte e ha composto un opuscoletto abbastanza curioso sui nomi della regione. Anzi, ci ha preso gusto. Sembra che stia dedicando i suoi ultimi anni a scrivere un grosso libro su Combray e i suoi dintorni. Vi farò avere l'opuscolo sui dintorni di Féterne. È un autentico lavoro da certosino. Ci troverete cose molto interessanti sulla nostra vecchia Raspellier, di cui mia suocera parla davvero con troppa modestia. In ogni caso, replicò Madame de Cambremer, madre, quest'anno la Raspellier non è più nostra, non mi appartiene. Ma voi avete un temperamento di pittore, lo si sente. Dovreste disegnare. Mi piacerebbe tanto mostrarvi Féterne, che è molto meglio della Raspellier. Infatti, da quando i Cambremer avevano affittato questa proprietà ai Verdurin, la sua posizione dominante aveva smesso bruscamente di costituire ai loro occhi quello che era stata per tanti anni, vale a dire una posizione che offriva il vantaggio unico nella zona, d'una vista sia verso il mare che sulla valle, e in compenso aveva presentato loro di colpo l'inconveniente che per arrivarci e andarsene bisognava di continuo salire e scendere. In breve, si sarebbe detto che se Madame de Cambremer l'aveva affittata, era stato meno per incrementare le sue entrate che per far riposare i suoi cavalli. E si dichiarava entusiasta di poter finalmente, a Féterne, disporre del mare con continuità e così da vicino, lei che per tanto tempo, a parte i 2 mesi che trascorreva là, l'aveva visto solo dall'alto e come in una cartolina. «Lo scopro alla mia età», diceva. E sapeste quanto ne godo? Mi fa talmente bene. Darei la Raspellier in affitto gratis per essere costretta a stare a Féterne. Per tornare ad argomenti più interessanti, riprese la sorella di Le Grandin, chiamava mamma la vecchia marchesa, ma con l'andare degli anni aveva preso a trattarla con insolenza. Parlavate di ninfee. Penso che conosciate quelle dipinte da Claude Monet. Che genio! Mi interessa in un modo particolare perché vicino a Combray, il posto dove, come vi ho detto, ho delle terre, ma preferì non dilungarsi su Combray. Ah, è sicuramente la serie di cui ci ha parlato Elstir, il più grande pittore contemporaneo, esclamò Albertine, che fino a quel momento non aveva aperto bocca. Ah, si vede che la signorina ama l'arte, commentò Madame de Cambremer, riassorbendo con un profondo respiro un getto di saliva. «Mi permetterete di preferirgli le Sidaner, signorina?» intervenne l'avvocato sorridendo con aria da intenditore. E poiché aveva apprezzato o visto apprezzare in altri tempi certe audace di Elstir, aggiunse: «Elstir era dotato, è quasi entrato a far parte dell'avanguardia, ma poi non so perché non ha perseverato, ha sprecato le sue possibilità». Madame de Cambremer diede ragione all'avvocato per quel che riguardava Elstir, ma con grande dispiacere dell'ospite mise Monet sullo stesso piano di Lesidaner. Non si può dire che fosse stupida. Traboccava di un'intelligenza che sentivo per me completamente inutile. Poiché il sole stava calando, i gabbiani adesso erano gialli, proprio come le ninfee in un altro quadro di quella stessa serie di Monet. Dissi che la conoscevo e, continuando a imitare il linguaggio del fratello, di cui non avevo ancora osato fare il nome, aggiunsi che era un peccato che non avesse avuto l'idea di venire il giorno prima, perché avrebbe potuto ammirare, alla stessa ora, una luce alla Poussin. Di fronte a un signorotto normanno, ignoto a Egermont, il quale si fosse permesso di dirle che avrebbe dovuto venire il giorno prima, Madame de Cambremer le Grandin si sarebbe certamente raddrizzata con aria offesa. Ma io avrei potuto trattarla in modo ancora più confidenziale senza che lei per questo cessasse d'essere tutta zucchero. Potevo, in quel caldo, luminoso, tardo pomeriggio, saccheggiare a mio piacimento la grossa torta al miele che Madame de Cambremer era così di rado e che sostituì i pasticcini che non mi venne in mente d'offrire. Ma il nome di Poussin, senza alterare l'amabilità della donna di mondo, sollevò le proteste della matrice d'arte. Sentendo quel nome, produsse a 6 riprese praticamente prive di intervallo quel piccolo schiocco della lingua contro i denti con cui si suole comunicare a un bambino che si sta comportando male il rimprovero d'aver cominciato e al tempo stesso il divieto di continuare. In nome del cielo, dopo un pittore come Monet, che è semplicemente un genio, non mi tirerete in ballo un vecchio trombone senza talento come Poussin. Vi dirò con tutta schiettezza che lo trovo il più terrificante degli scocciatori. Non so cosa dirvi, proprio non ce la faccio a chiamare pittura quella roba. Monet, Degas, Manet, loro sì che sono dei pittori. È curioso, aggiunse fissando con uno sguardo intento ed estatico un punto indefinito dello spazio nel quale evidentemente scorgeva il suo stesso pensiero. È davvero curioso. Un tempo preferivo Manet. Adesso continuo ad ammirare Manet, si capisce, ma credo tutto sommato di preferirgli Monet. Le cattedrali. Lo scrupolo con cui mi informava dell'evoluzione subita dal suo gusto era pari all'autocompiacimento. E si sentiva che le fasi che esso aveva attraversato non erano meno importanti per lei delle varie maniere dello stesso Monet. Non avevo del resto da menar vanto del fatto che mi confidasse le sue predilezioni, se nemmeno di fronte alla più stupida provincialotta poteva restare 5 minuti senza provare il bisogno di esternarle. Quando una nobile signora di Avranches, incapace di distinguere Mozart da Wagner, diceva, alla presenza di Madame de Cambremer, «Non c'è stata nessuna novità interessante mentre eravamo a Parigi. Siamo stati una volta all'Opéra Comique, davano Pelease e Mélisande, una cosa orribile». Madame de Cambremer non soltanto mordeva il freno, ma sentiva il bisogno di esclamare «Al contrario, è un piccolo capolavoro!» e di mettersi a discutere. Era forse un'abitudine di Combray, presa frequentando le sorelle di mia nonna, che la definivano «battersi per la buona causa», e prediligevano i pranzi durante i quali sapevano, ogni settimana, di dover difendere i loro idoli contro i filistei. Non diversamente da loro, Madame de Cambremer amava sferzarsi il sangue, facendo baruffa sull'arte, come altri sulla politica. Prendeva le parti di Debussy come avrebbe preso quelle di un'amica di cui avesse sentito biasimare la condotta. Eppure, doveva ben rendersi conto che dicendo «Ma no, è un piccolo capolavoro!» non poteva pretendere di improvvisare, nella persona che rimetteva a posto, tutta la progressione di cultura artistica al cui termine si sarebbero trovate d'accordo senza bisogno di discutere. «Dovrò proprio chiedere a Lesidaner cosa pensa di Poussin», mi disse l'avvocato. «È un uomo chiuso, taciturno, ma riuscirò a cavarglielo di bocca». «E poi», continuò Madame de Cambremer, «detesto i tramonti. Fanno romantico, melodramma. È la ragione per cui non sopporto la casa di mia suocera con le sue piante mediterranee. Vedrete, sembra un parco di Monte Carlo. Per questo preferisco la vostra riva. È più triste, più sincera. C'è un sentiero da cui non si vede il mare. Quando piove non c'è che fango. È tutto un mondo. Come a Venezia. Detesto il Canal Grande e non conosco cosa più emozionante dei piccoli rii. Del resto, è una questione d'atmosfera. Ma, le dissi, intuendo che l'unico modo per riabilitare Poussin agli occhi di Madame de Cambremer era di farle sapere che era tornato di moda. Degas giura di non aver mai visto niente di più bello dei Poussin di Chantilly. «Eh? Non conosco quelli di Chantilly», replicò Madame de Cambremer, che non voleva essere di parere diverso da Degas. «Ma posso parlare di quelli del Louvre, che sono degli orrori?» «Ammira moltissimo anche quelli. Bisognerà che vada a rivederli. Sono impressioni un po' vecchie ormai», riprese dopo un istante di silenzio. «È come se il giudizio favorevole che certamente avrebbe presto emesso su Poussin dovesse dipendere, anziché dalla notizia che le avevo testé comunicata, dall'esame supplementare, e stavolta definitivo, cui contava di sottoporre i Poussin dal Louvre per aver modo di ricredersi. Accontentandomi di quell'inizio di ritrattazione, giacché se non ammirava ancora i Poussin, si stava aggiornando in vista di una seconda deliberazione, per non tenerla ulteriormente sulla corda, dissi a sua suocera quanto mi avessero parlato dei meravigliosi fiori di Féterne. Modestamente, la marchesa parlò del piccolo giardino da curato che aveva sul retro e dove, spingendo una porta, andava di mattina in vestaglia a dar da mangiare ai suoi pavoni, a cercare le uova deposte dalle galline, a cogliere qualche zinnia o qualche rosa che poi, sul sentiero della tavola, costeggiando come una siepe fiorita le uova, la crema e le fritture, le ricordavano i suoi viali. «È vero che abbiamo molte rose», aggiunse. «Il nostro roseto, anzi, è un po' troppo vicino alla casa. Certi giorni mi fa venire mal di testa. È più piacevole dalla terrazza della Raspellier, dove il profumo delle rose arriva col vento, ma stordisce già meno». Mi girai verso la nuora. «È puro Peleas», le dissi per lusingare la sua passione modernista, «il profumo di rose che sale fino alle terrazze. È così forte nella partitura che io, soffrendo di hay fever e di rose fever, starnutivo ogni volta che ascoltavo quella scena». «Che capolavoro il Peleas!» esclamò Madame de Cambremer. «Mi fa impazzire!» E, accostandosi a me con i gesti di una selvaggia in vena di civetterie e aiutandosi con le dita per pizzicare le note immaginarie, si mise a canticchiare qualcosa che supposi dovesse essere per lei l'addio di Peleas, operazione nella quale perseverò con veemente insistenza, come se fosse stato importante in quel momento che lei mi ricordasse la scena in questione, o piuttosto, forse, che mi dimostrasse di ricordarla. «Credo che sia ancora più bello del Parsifal», aggiunse, «perché nel Parsifal le più straordinarie bellezze non sono disgiunte da un certo alone di frasi melodiche in quanto tali caduche». «So, signora», dissi rivolgendomi alla marchesa madre, «che siete una grande musicista. Mi piacerebbe molto ascoltarvi». Madame de Cambremer la Grandin fissò il mare per non unirsi alla conversazione, convinta che ciò che amava la suocera non fosse musica. Considerava il talento, preteso secondo lei in realtà assai notevole, di cui la si accreditava, come un virtuosismo di nessun interesse. È vero che l'unica allieva di Chopin ancora vivente dichiarava a ragione che il modo di suonare, il sentimento del maestro, s'era trasmesso attraverso di lei alla sola Madame de Cambremer. Ma suonare come Chopin era lungi da costituire un merito per la sorella di Le Grandin, la quale non disprezzava nessuno quanto il musicista polacco. «Oh, stanno volando via!» esclamò Albertine, indicandomi i gabbiani, che, liberatisi per un attimo del loro travestimento floreale, salivano tutti insieme verso il sole. «Le ali da gigante impediscono loro di camminare», commentò Madame de Cambremer, confondendo i gabbiani con gli albatri. «Mi piacciono tanto, li vedevo ad Amsterdam», aggiunse Albertine. «Fiutano il mare, vengono ad annusarlo persino tra le pietre delle strade. Ah, siete state in Olanda? Conoscete i Vermeer? Si informò imperiosamente Madame de Cambremer, nello stesso tono con cui avrebbe chiesto: conoscete i Germain? Già che lo snobismo, cambiando oggetto, non cambia per questo d'accento. Albertine rispose di no. Credeva che si trattasse di persone e vive, ma la cosa non fu notata. «Sarei felice di farvi un po' di musica», mi disse Madame de Cambremer. «Ma sapete, suono cose che alla vostra generazione non interessano più. Sono stata allevata nel culto di Chopin», aggiunse a bassa voce perché temeva la nuora e sapeva che per lei, convinta che Chopin non fosse musica, suonarlo bene o suonarlo male erano espressioni prive di senso. Riconosceva alla suocera l'abilità tecnica, la capacità di cesellare i passaggi. «Nessuno riuscirà a convincermi che sia una musicista», concludeva Madame de Cambremer Le Grandin. Infatti, credendosi all'avanguardia e soltanto in arte mai abbastanza a sinistra, si figurava non solo che la musica progredisse, ma che lo facesse in un'unica direzione e che Debussy fosse in qualche modo un ultra Wagner, ancora un po' più avanti di Wagner. Non si rendeva conto che se Debussy non si era emancipato da Wagner tanto quanto lei stessa avrebbe creduto di lì a qualche anno, giacché ci si serve pur sempre delle armi conquistate per finire ad affrancarsi da colui che si è momentaneamente sconfitto, egli cercava tuttavia, dato che le opere troppo complete dove tutto è espresso trasmettevano ormai un senso di sazietà, di appagare l'esigenza opposta. Per il momento, ben inteso, c'erano delle teorie ad appoggiare questa reazione, simili a quelle che in politica danno un sostegno alle leggi contro le congregazioni o alle guerre in Oriente, insegnamento contro natura, pericolo giallo, eccetera. Si affermava che a un'epoca dominata dalla fretta si addice un'arte rapida, esattamente come si sarebbe affermato che la guerra futura non poteva durare più di 15 giorni o che le ferrovie avrebbero fatto dimenticare gli angolini cari alle diligenze e destinati, peraltro, a essere rivalutati dall'automobile. Si raccomandava di non affaticare l'attenzione dell'ascoltatore, come se l'uomo non disponesse di generi differenti di attenzione e non spettasse proprio all'artista risvegliare quello più alto. Infatti, la stessa persona che sbadiglia di stanchezza dopo 10 righe di un articolo mediocre va ogni anno fino a Bayreuth per sentire la tetralogia. D'altra parte, doveva venire il giorno in cui, per breve tempo, Debussy sarebbe stato dichiarato fragile quanto Massenet. I sussulti di Mélisande abbassati al rango di quelli di Manon. Teorie e scuole come i microbi e i globuli si divorano a vicenda, assicurando con la loro lotta la continuità della vita, ma quel tempo non era ancora venuto.